Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Buonasera, buonasera da Agostino Spolore, sempre presente qui il giovedì sera, ovviamente, insomma, qui alle 21 con il suo programma live assieme al suo fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera, caro Agostino. Veramente un'altra volta sono nella Fossa di Leone. Stasera sei pieno di gente. Ma che bello, proprio bello, proprio divertente. Allora, questa è Blue Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Questa è la voce di Agostino, dicevo, con Maurizio. Ma questa sera c'è una tribù di persone. Sono tantissime, aspetto che li conto. Sono 10 persone che stanno facendo compagnia assieme a noi due. Li sentirete tra qualche istante, sono gli Angel Ensemble Vocal Ensemble, meglio dire. E prima di presentarli, però, i nostri dati bisogna darli giustamente ogni sera. Quindi il nostro numero telefonico, quello in studio, è lo 049 875 6423. Mentre per quanto riguarda gli SMS, se volete mandarli, penso che abbiano piacere di rispondere alle vostre domande. E se avete qualche curiosità, insomma, vi ricordo il nostro numero per gli SMS, il 346 23 20 033. Il nostro sito dove ci state ascoltando in streaming, cioè www.bluradioveneto.it, lì sulla sinistra sono home page, c'è scritto ascolta la radio e cliccando lì ci sentite in diretta 24 ore su 24. Se invece ci state ascoltando nelle frequenze, cioè via radio, vi ricordo le nostre frequenze sono 88 e 700 principalmente, poi per la zona, diciamo, verso Venezia e così più quella zona lì, insomma, c'è il 94 e 600 MHz in modulazione di frequenza. Le nostre pagine su Facebook, cioè semplicemente Blue Radio Veneto, l'altra è Blue Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco, che salutiamo, magari ci sta ascoltando, perché no, quindi un caro saluto. E Maurizio, dopo i fasti di ieri sera ti ritrovo qui sì, a distanza di 24 ore. Ieri sera abbiamo avuto Frank Antoni, quindi un altro genere, un'altra scuola, un'altra musica. Stasera abbiamo un ensemble corale, è importante, che adesso molto significativo questo, e poi chiaramente non solo corale, c'è il basso, c'è la chitarra, abbiamo le trombe, no? Possiamo, sì, ma il bassista è proprio il perno di tutti, il propulsore, la chiave di volta di tutta la band praticamente. Abbiamo gli Enjoy Vocal Ensemble, benvenuti ragazzi, ciao a tutti. Ciao, grazie. Fa freddo fuori, ma qui dentro vi scaldate. Qui si sta benissimo. Qua siamo 40 gradi, Agostino. Sì. Infatti io c'ho molto caldo, poi insomma voi siete tantissimi lì nella stanzina, invece io sono qui da solo. Allora, benvenuti ovviamente a Blue Radio Veneto, grazie di aver accettato l'invito. Ci fa molto piacere avervi qui. Chi sono questi vocal? Chi è questo gruppo? Chi sono gli Enjoy in pratica? Chi è che mi risponde? Qualcuno... Enjoy. Eccola qua, secondo io. Bene, benissimo. Io. Enjoy, un gruppo nato nel 2000, è nato da alcuni padri fondatori che sono qui presenti tra di noi oggi, tra di noi. Padri e madri. E madri, esatto. È nato dalla passione comune, diciamo, per la musica, per il canto, per la musica vocale e corale, quindi da questa unione è nato un primo repertorio che poi si è arricchito anche con l'intervento, l'aggiunta di nuove persone. Adesso la nostra ensemble è formata da 8 persone, 8 cantanti più una band che a seconda del repertorio che proponiamo varia appunto tra la parte funky, la parte gospel, la parte swing, quindi ci adattiamo un pochino alle varie esigenze. Sì, tu sei, diamo il nome, insomma, lei è Rossana Carraro, che io ho avuto modo di conoscere un mesetto fa. In altre vesti, lo possiamo dire comunque. Possiamo dirlo assolutamente. Lei è la Mary Poppins nel musical, arriva Mary Poppins. Mi è dispiaciuto dargli una brutta notizia, purtroppo una deve vincere e non sei stata tu. Ma insomma, non importa, l'importante è stata una bellissima esperienza partecipare con questo musical, conoscere tante altre realtà, appunto, di musical, e comunque magari ci ritroviamo per una bella pizza, esatto, sicuramente tutti insieme. Nella recensione abbiamo scritto, noi della redazione, della radio, abbiamo scritto: partendo dallo swing, proseguendo con il gospel, passando per il funky ed arrivando al pop. Questi sono i 4 punti focali cardine del vostro percorso sonoro. Dal 2000 in poi queste formazioni, questi momenti si sono sviluppati sia dal punto di vista corale, sia soprattutto dal punto di vista della band, perché la band ha supportato la voce, non è così? Sì. Certo. Bassista, che è anche il perno propulsore o l'ideatore in parte del progetto, adesso mi deve capire, mi fa capire il perché la band sopporta il discorso vocale. Perché fare solo un gruppo. Puoi parlare anche sui nostri microfoni, Giampaolo, perché tu hai una voce Giampaolo, bassa. Sì, parla pure con questo. Parla pure con quello, sì, tranquillamente. Adesso, no? Sì, facciamo così. Siamo un po' stretti stasera, un po' acciughine, insomma, comunque ci stiamo, dai. Ce la fai? Sì. Okay. Sì. Poi ci sistemiamo meglio, Maurizio. Ci sei? Ci sono. Perché è un po' difficile tenere il basso anche il microfono. Esattamente. Mi rifai la domanda che l'ho persa per cercare. Dicevo il microfono. L'importanza del supporto dal punto di vista della band nella vocalità, perché la vocalità è fondamentale, però la band deve supportare la vocalità vostra. Sì, perché il gruppo non nasce solo, cioè, con l'idea di andare fuori a cappella, e quindi abbiamo voluto affrontare dei repertori che necessariamente abbiano un accompagnamento strumentale che supporti automaticamente le voci che nei vari arrangiamenti e quindi che si differenziano da stile a stile hanno la necessità di essere diciamo supportate da un gruppo che è variabile a seconda del repertorio. Quindi i musicisti devono avere l'attenzione e la bravura per gestire il discorso. Sì, ci sono dei musicisti che ci accompagnano, che sono specializzati in queste cose, e degli altri, e quindi noi ci avvaliamo di uno piuttosto dell'altro, a seconda di quello che ci serve. Quindi non c'è invece qualcuno che riesce a coprire tutte quante le varie. Quindi non è semplicissimo amalgamare tutto. No, è difficile. È molto difficile. Infatti, complesso. Magari capita che alle prove noi arriviamo, cominciamo a cantare. Nel momento in cui arrivano i musicisti si cominciano a fare le correzioni, allora il foglio comincia a diventare tutto scritto proprio perché non c'è una grandissima attenzione da parte di Giampaolo a questo, e quindi noi praticamente dobbiamo, cioè i musicisti diventano quasi dei cantanti e dei cantanti dei musicisti nell'armonia generale. Cioè un'unione totale. Esatto. Okay. C'è da dire anche che abbiamo avuto la fortuna di poter cantare con dei musicisti d'eccezione, che non è una cosa così facile, specialmente nel panorama musicale vicentino / padovano, perché io sono più da questa parte di Padova, diciamo. Ho capito. E infatti, anzi, penso che tante volte abbiamo avuto la possibilità di fare certi brani proprio perché con noi suonano certi musicisti. Eh sì, esattamente. Questo è un discorso importante. La direzione deve essere anche presa anche su questo punto di vista. Cioè la musica deve seguire il coro e non soltanto il coro deve seguire la musica. Cioè adesso è un connubio totale, praticamente. Rompiamo il ghiaccio subito. Cosa dici, Maurizio? Poi li presentiamo perché sono tantissimi, quindi è giusto presentarli. Sì, anche sono fare moltissimi, loro, però è bello. E fare il loro nome, insomma, mi sembra giusto. Non l'abbiamo ancora fatto, ma lo facciamo dopo della canzone. Cosa dici, Maurizio? Okay. Maurizio, mi senti? Sì, ti sento. No, sai, perché devo vedere il labiale stavolta. È come se andiamo allo stadio, devo vedere il labiale. Sposta il momento così vedo il labiale, effettivamente. Mi vedi adesso? Adesso ti vedo sì. Pienamente. Ah, perché sei senza... Sì, devo vedere il labiale, devo leggere... Ha ceduto la sua cuffia a noi. Esattamente. Fatto generoso. Allora, cosa ci fate ascoltare adesso? Il brano con cui di solito apriamo i nostri concerti gospel, che si chiama Higher and Higher. Sempre più su, più in alto, verso l'amore di Dio. Ok. Forevermore, oh, your love is lifting me. Just Peccato non avere le telecamere. Sì, Maurizio. Proprio la movenza del gospel si è visto, si sono mossi contemporaneamente tutti quanti. Il nostro chitarrista qui di fianco a me, davi con una certa propulsione, quasi quasi percussiva, la spaccavi, quasi davi un impulso non da poco. Visto che sei qua, adesso mi dici il perché davi un impulso non da poco. Beh, innanzitutto siamo senza batteria questa sera, appunto per quello. Potete chiamarmi Kita batterista. Kita batterista, sì. Ho visto che avevi una spazzolina poi. Beh. Sì, sì, sì, quella la tengo per dopo magari, così facciamo sentire. Dobbiamo pettinarci verso metà spettacolo, perché dobbiamo essere sempre in ordine. La bellezza di uno strumento acustico è appunto che lo si può anche intendere un po' come una cassa di legno a disposizione, un po' come uno djembe oppure qualsiasi strumento che possa dare diversi timbri, che in base anche a come ci dai proprio fisicamente sopra e con che strumento ci dai. Tu si capisce perché iniziati i concerti con questo pezzo, perché scalda l'ambiente, vero? Esatto. Cosa dici, Serena? Proprio assolutamente scalda l'ambiente, dà l'input. È il pezzo giusto per iniziare un concerto gospel, questo proprio porta la gente, facciamo al movimento, al battere le mani, eccetera. Esatto. Esattamente, è una cosa perfetta. Allora li presentiamo, Maurizio. Sì, vai, vai. Mi sembra giusto. Ha parlato poc'anzi, ne approfitto subito, Serena Paginato, che è già venuta a trovarci qui in questo studio con i With Matrix, giusto, Serena? Esattamente, che saluto se ci ascoltano. Penso di sì, qualcuno mi ha scritto che ci stava ascoltando. E poi l'altra dei With Matrix è Marta Melchiori, che anche lei è già stata qui. Ciao a tutti. E poi ci sono ancora altre due femminucce. L'altra abbiamo poc'anzi annunciata, cioè Rossana Cararo. Ciao. E poi c'è la new entry, si può dire, la nuova entrata qui a Blu Radio Veneto, che non sì. Ti conoscevo. Ecco, Blu Radio Veneto, sì. Giulia Toniolo, giusto? Sì, sì, ciao a tutti. Benvenuta anche a te. Grazie. E poi abbiamo i maschietti. Sì, sì, esatto. Che sono Gianpaolo Cararo. Ciao. Il bassista. Ciao. Abbiamo Marco Zonta. Ciao, ciao a tutti. Marco Bozzolan, ciao, avete una fantasia voi. Marco Ruffato, se non si chiamano Marco non li vogliamo, ecco. È un requisito fondamentale per entrare poi, nel gruppo. Poi c'è Massimo Di Giulio, ciao, che è il tastierista, e infine c'è Francesco Faldani, giusto? Sì, ciao. Che era il chita batterista. Percussionista stasera. Però chitarrista, percussionista. Però ne manca una, giusto? Sì, sì, sì. Salutiamo. Sì, Betty. Perché ciao, Betty. Poverina, ciao, a casa Betty. Ammalata. Betty. Purtroppo la febbre, la faringite, la tonsillite, tutto quello che un cantante rifugge, lei purtroppo se l'è preso, ciao, giusto, Betty, oggi. Ciao, quindi Betty, Betty siamo... ci manchi. Ciao Betty, ci sei? Io ci sono. Ciao. Ciao ragazzi, siete vi ho ascoltato, siete veramente fantastici. Siamo è bello belli. Sentirvi in diretta radio. Beh, dai, ciao Silvio, sei di parte, Betty. Quindi adesso dovranno rinvitarci un'altra volta, certo. Così ci sarai anche tu. Ah, e quindi siamo d'accordo anche con Agostino, ha detto che comunque ci vorrà di nuovo lì, quindi sì, ragazzi, siamo già invitati per un prossimo appuntamento. Ti confido che gliel'avevo già detto a Gianpaolo, comunque questo, ci siamo sentiti un sacco di volte al telefono io e lui, e già gli avevo chiesto appunto di ritornare quando sarà il momento. Grazie. Anche perché secondo me voi meritate uno spazio più ampio. Perché siamo in tanti. Della stanza o... No. Un bilocale perlomeno. Esatto. Musicalmente parlando, Betty, che impressione ti fa da essere a casa e non essere qui? Da schifo. Era molto meglio essere là sicuramente. Purtroppo mi sono beccata sta faringite e mi sta bloccando proprio. Vabbè, dai, pazienza. Speriamo almeno per domani, visto che abbiamo anche un altro bel impegno importante, di essere un po' presa meglio, insomma, almeno vocalmente parlando. Domani cosa avete? Siamo a Verona. Ragazzi, volete dirlo a voi? Domani sera appuntamento al Teatro Filarmonico di Verona. Vicino a Piazza Bra, Vicino a Piazza Bra, quindi una sede d'eccezione. Da un annetto a questa parte gli Enjoy hanno iniziato a collaborare con Benedetta Caretta, che è la vincitrice del programma Io Canto su Canale 5, condotto da Gerry Scotti, della scorsa edizione, dell'edizione dell'altro anno, 2 anni fa, esatto. E quindi appunto come supporto sia di band sia corale, gli Enjoy l'accompagnano nei suoi concerti nella zona del Veneto, e quindi appunto domani sera c'è questo appuntamento importante al Filarmonico di Verona. E poi magari parleremo anche degli altri prossimi vostri concerti, insomma, che assolutamente fare... certo che sì. Chi è l'anima di questa band? Betty, ne approfitto per tenerti un po' al telefono. Guarda, diciamo che un po' tutti mettono la loro parte, perché siamo tutte persone proprio amanti della musica, amanti del canto. Giampaolo logicamente è l'artefice di tutto, perché è lui che coordina, ha determinazione e anche buona volontà, perché veramente fa un lavoro enorme dietro questo gruppo. È lui che porta avanti il progetto più di tutti, e poi ognuno con la sua parte lo sta rendendo, insomma, quello che sta diventando, soprattutto in questi ultimi anni. Certo. Tu sei una vecchia guardia Ma neanche tanto, nel senso che non sono proprio tra i fondatori, sono arrivata nel 2005, dopo un provino, e vabbè, sono entrata come contralto, poi mi ha raggiunto Giulia. Ciao Giulia! Ciao Betty! e niente, quindi poi il gruppo è andato avanti con varie entrate, altra gente che è andata e uscita. Adesso, insomma, siamo abbastanza stabili da un annetto e mezzo, insomma, con questa formazione. Certo. Ci fai compagnia questa sera al telefono? Io vi ascolto, ma quando volete. Allora tu resta lì, non ti preoccupare. Questa voce è bellissima, sì. Vi farò compagnia. Ogni tanto ti chiediamo qualcosa, va bene? Tu resta lì, buona, intanto ti ascolti. Mi sembra di aver capito che ti volevano dedicare una canzone, giusto? Cari, grazie. Certo, grazie. D'obbligo. Cosa mi dedicate? Sorpresa. Preparati. Okay. Allora resti in ascolto. Siete pronti? Sì, prontissimi. Con questo brano io saluterei anche Andrea, che da un po' di tempo ci affianca. È vero. Sta anche lui lavorando per entrare a far parte degli Enjoy. Ciao Andrea. Che sarebbe un altro cantante. Un basso. E che non si chiama Marco. Si chiama Marco. Però si chiama di cognome Marchesini. Però, quindi il requisito rimane. Insomma, il requisito fondamentale c'è. Siete pronti allora? Prontissimi. Say you love me too. prayer now, baby. Answer my prayer, baby. Answer my prayer. È un classico, questo è un classico. In Italia gli italiani l'hanno conosciuto perché era lo stacco all'epoca dei campionati mondiali del Messico. C'era lo stacchetto, c'era questo pezzo qua che faceva da stacchetto. Questo non me lo ricordavo. Faceva da stacchetto. È un pezzo favoloso, un classico ormai. L'avete fatto in versione, non dico gospel, secondo me molto più soul, secondo me, assolutamente soul. Il gospel l'avete lasciato perdere, l'avete colorato soul. Cosa ne dite? Siete d'accordo su questa mia interpretazione? Dire che anche a seconda delle situazioni in cui noi ci troviamo mettiamo dentro un po' di questo, un po' di quello. Dunque, ma la bellezza è questa delle cose, cioè la situazione intima e acustica magari ci fa mettere un po' più d'anima, no? Secondo me avete messo molta anima stasera, almeno in questo pezzo, che è un pezzo famosissimo, un pezzo, possiamo dirlo anche un pezzo pop, abbiamo ascoltato senza nessun problema, assolutamente, ma con questi connotati proprio specifici, è stato fatto da un sacco di gente. Chi è l'anima, come dicevo prima? Intanto sentiamo se c'è Betty, ci sei sempre tu, vero? Ci sono. Quando vuoi intervenire, tu intervieni, sai, non ti far problemi, se vuoi rispondere. Sono sicuro se sto zitto. Si potete intervenire tutti, il dibattito è aperto, perché quando si parla di musica non ci sono confini. Non fatela parlare troppo, perché sennò domani non canta più. Serve domani, attenzione. Allora, io sono curioso, voglio sapere com'è la vita all'interno della vostra formazione, insomma. Chi è che comanda, nel senso, chi è che decide le canzoni? Comanda è una parola brutta, insomma, ma chi è che, insomma, ha un po' la parola più importante? Chi è che, come decidete le canzoni, come le scegliete? Il bello del gruppo è proprio il fatto che ognuno lo propone, comunque qualche brano lo propone a noi, dopo assieme vediamo se è adatto alle nostre gole, se le nostre corde vocali. Quindi, se piace, siamo dei palati più o meno esigenti. Tutti quanti e... Ma ci saranno dei parametri, insomma, che segue per arrivare poi a proporvelo a voi? Sinceramente penso che Giampaolo conosca talmente tanto bene i nostri gusti e anche lo spirito della formazione, che perlomeno da quando canto io in questo gruppo non è mai successo che abbiamo rifiutato una canzone, non l'abbiamo portata a termine. Alcune magari le stiamo trascinando da un po' di tempo, non le stiamo magari proprio mettendo a puntino, però credo non sia mai successo che non abbiamo portato alla fine, insomma, il brano. Quindi vi è sempre diciamo, andato bene quello che lui proponeva, insomma. Sì, beh, c'è da dire che ci siamo anche incontrati delle sere giusto per definire un po' il repertorio, e venivano fuori delle proposte anche improbabili certe volte, perché ognuno vorrebbe dire la sua, vorrebbe mettere la canzone che più gli piace in quel momento, ed è giusto così, solo che naturalmente alla fine bisogna anche fare i conti con un repertorio che abbia un certo senso, quindi abbiamo creato un repertorio che abbia un unico filo conduttore e parla vicino al microfono, di passare da un genere all'altro con dei brani di collegamento appunto tra i generi. E chi ha deciso di fare questo pezzo? L'idea dove è partita, da Giampaolo o da qualche altro, di fare questo classico ormai? Ma questo è uno dei pezzi più vecchi che abbiamo, che è in repertorio, perché era quello che proponevamo ai primi matrimoni. Ah, okay. Che bene, facevamo per le prime uscite, possiamo dire. Sì, le prime uscite, sì. È più un brano commerciale. Sì, assolutamente commerciale, lo conoscono tutti praticamente. Anche, infatti, tutti lo vogliono il matrimonio. È legato al film, il certo. Matrimonio del mio migliore amico. Certo. Beh, però la canzone è molto più vecchia. La canzone è molto più vecchia, però forse sai, la nostra età film, Maurizio, ha portato a un aumento dell'audience, sicuramente molta altra gente l'ha conosciuta. Sì, ma poi è inserita anche nel nostro spettacolo, è inserita un po' in una piccola... In che momento tributo, dello spettacolo? Un piccolo tributo che facciamo ad Aretha Franklin. Eh sì, ma in quel momento del tributo ad Aretha Franklin? Dal punto di vista della scaletta, non so, adesso la metà, perché cioè, metà, secondo fine, me è importante sapere proprio la dimensione temporale, secondo me è importante. Sì, verso la fine, perché poi si comincia con brani un po' più ritmati e quindi si finisce un po' in bellezza, certo. Insomma, con la gente che balla, diciamo, alzatevi dalle sedie, venite qui, insomma, sì. Li prepariamo, basta. Perché dopo facciamo Think e Respect, quindi... Sì, fate i fuochi d'artificio, si riposano e poi... I fuochi d'artificio, giustamente. Citando, avete scelto Aretha Franklin è un personaggio molto difficile, secondo me, anche se questo è il pezzo più facile tra virgolette, più conosciuto, perché Aretha non ha fatto solo questo, ha fatto tante altre cose, anche se Burt Bacharach gli ha scritto questo pezzettino in una certa maniera, però Burt Bacharach è un autore straordinario, ha fatto pezzi per tutti. Sì. E difatti qua si vede che c'è la sua, c'è la sua mano, la sua, si vede immediatamente magica. Questo ritornello, questa melodia subito accattivante, avvolgente, possiamo dire questo, se siete d'accordo. E sì, voi stasera l'avete avvolta a vostra maniera, con la coralità, e grazie al nostro percussionista oltre al tastierista, che è fondamentale, sì, assolutamente fondamentale. È fondamentale perché lui ci ha dato un contributo notevole quando abbiamo investito nei repertori più swing, più... Esattamente, lui è jazzista, fondamentalmente, parte dal jazz. Sì, anche perché noi prima venivamo da una situazione che vedeva il gruppo accompagnato da delle basi e una chitarra dal vivo. Certo. E questo però ci limitava nelle scelte artistiche. Poi ho conosciuto Massimo, gli ho fatto la proposta e lui veramente è stato più che disponibile in tutti questi anni che ci sopporta e ci sostiene anche. Ci ha lanciato, Massimo. Perché è stato grazie a lui che abbiamo potuto interpretare e diciamo così esibirci nei pezzi più jazz e nei pezzi più perché il vostro repertorio non è solamente i pezzi molto, molto pop tra virgolette, esatto, raffinati di Aretha Franklin. Voi allargate il campo d'azione, abbiamo tempo fino alle 10:30 per parlarne, però siete già caldi, vedo che siete già pronti, già predisposti. Sì, sì, abbiamo un repertorio in uno dei nostri spettacoli, appunto offriamo tutta una prima parte che tributa, diciamo così, ai Manhattan Transfer, ecco, quindi un altro gruppo swing, molto, molto, molto particolare per le formazioni vocali, assolutamente. Ci vuole quindi anche una band. Perché lo sdoganamento dal punto di vista vocale, almeno una parte anche mondiale possiamo dire, sono stati Manhattan Transfer. Che li hanno portati al successo, sì. Cioè la gente li ha conosciuti grazie ai Manhattan Transfer, certi pezzi. Sì, che in Italia i Manhattan Transfer, cioè la vocalità, il gruppo vocale non è molto affermato in Italia, non c'è questa predisposizione alla vocalità. I Manhattan Transfer hanno un po' mosso le acque, se mi posso esprimere in questa maniera. Sì. E poi lo tsunami l'hanno fatto. Lo tsunami ha fatto il resto, sì. I Take Six. Esatto, esattamente quello. Sì. Trepitosi. Beh, insomma, c'erano anche i neri per caso, tanto per... C'erano anche gli House Martins. Anche loro hanno fatto un qualcosina. C'erano anche gli House Martins che mi piacevano moltissimo. Gli House Martins, sì, sono d'accordo, bravissimo, straordinario. Carnival Love è una canzone bravissima, straordinaria. Poi lui ha fatto il DJ su un altro versante. Può essere. Ma molto DJ, ha proprio cambiato totalmente genere. Io sono sempre curioso, e un dono di natura forse è un difetto. Come mai non fate neanche una canzone in italiano? Almeno io non ne ho sentite cantate da voi. Perché non lo sanno l'italiano, non lo sanno solo l'inglese. Diciamo che cantando in inglese si maschera meglio. No, insomma, ci si può scordare qualche parola. No, a parte gli scherzi, c'è una motivazione particolare o perché vi piace proprio cantare in inglese? No, ma perché abbiamo preso i pezzi inglesi. Abbiamo visto anche, rifacendoci al discorso di Manhattan Transfer, cioè la scelta è obbligata, non possiamo andare in cerca di pezzi, anche se qualche idea di qualche riarrangiamento di pezzi in italiano c'è. Ma però non è facile, perché sennò non vorremmo cadere nelle solite tipo trio lescano o cose del genere che non vanno bene per la nostra formazione. Se no i marchi in un colpo li dobbiamo spazzolare via, ma anche per non andare su quel genere là. Ma in Italia esiste un genere similare? Cioè al di là del trio lescano, ma esiste? Beh, non so, secondo me esiste una formazione che sono i neri per caso, come hai detto tu prima, che sicuramente hanno l'organico che assomiglia molto ai suoni che piacciono a noi, certo. L'organico dei Take Six con altre cose, purtroppo però anche loro non è che abbiano tutti questi branoni italiani eccetera, forse non so, anche loro è un pezzettino che non li vedo. Sì, il grande successo ha scritto è stato fatto, sì, hanno avuto un momento di grande successo, poi sono un po' scivolati perché in Italia è difficile portare avanti un discorso di questo genere, fatto da italiani. Sì, ma anche il gruppo vocale è difficile in Italia. Esattamente, è decisamente difficile. Noi ci etichettano, veniamo spesso etichettati come coro. Eccolo. le ragazze si lanciano ad occhi chiusi. Una cosa così potreste fare anche voi, no? Sì, sì. Perché no? No, quello non c'entrava. Sono bravissimi. Sì, sono bravissimi. Sono un esempio anche per noi che studiamo i pezzi vocali. Però purtroppo non è facile portare in giro. Siamo sempre etichettati come coro, invece è, la sì, cosa, ma, è una cosa. Ma Neri, perché ha il grande successo, ha scritto Mattone. Sì. Quindi, Mattone. Niente da dire, però è un autore di canzonette, Mattone, di canzone leggere praticamente. Mattone l'ha scritto, che è il più grande successo. Però credo anche che non faccia tanto parte della nostra cultura questa questo. Hai ragione, cosa sì, ai Neri viene molto più spontaneo, certo, perché fa parte proprio della loro cultura, certo, e del loro sentire la musica. Noi siamo più propensi ad altro, insomma, ad altri generi, ad altre modalità. Finisci sempre sulla musica straniera per sì, fare questa tipologia di sì, perché i Neri cominciano dalla chiesa a cantare assieme. In Italia, cioè, non c'è questa tradizione, non c'è questo modo di fare, c'è poco da fare. C'è mai stata, sinceramente? No, non dal punto di vista di vocalità assieme, se ho capito, cioè, chiaramente io sono partita anch'io dal coro della chiesa, però l'allargamento non è così, poi continuano negli Stati Uniti, hanno proprio una tradizione che continua, c'è una cura diversa, esattamente questo, sì sicuramente. Ma c'è anche un bel pubblico, tutto un insieme, no? Sono seguiti, mentre invece chi è che qui segui l'artista singolo e basta. Certo. C'è anche una differenza da fare comunque con i Neri, per caso. Loro creano anche la musica, cioè con le voci. Voi invece avete i musicisti. Sì, però... Ed è una cosa un po' diversa, insomma. Sì, ma facciamo anche delle cose del genere. Tipo? Solo vocali. Stasera, essendo anche la Betty ammalata, ecco la siamo scusa. Un po'. È vero, Betty? Anzi, senti, sei ancora viva? Ma... no, sto portando Silvio a letto, dir la verità. Allora, portalo a letto, poi sei qui con noi, dai. No, esatto, perché volevo ascoltarvi, allora è rimasto qui, ma ormai gli penzolavano anche le pupille degli occhi. Allora, portalo a letto, dagli buonanotte, Silvio. Ciao. Ciao Silvio, poi ti aspettiamo qui comunque. Ok, ciao. Ecco, ciao. Possiamo anche fare un pezzo che praticamente se la giocano molto vocalmente, che è Java Jive. Okay. Manhattan Trust. Sempre Manhattan Trust. Che sono meravigliosi. Non parliamo perché vi siete avvicinati sempre a grandi linee ai Manhattan Trust. Adesso sentiamo il pezzo. Molto grandi. I love coffee, I love tea, I love the Java Java, and he loves me. Coffee and tea, and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boy, I love Java, sweet and hot. Whoops, Mr. Mordo, I'm a coffee pot. Shoot me the pot and pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh, slip me a slug from that wonderful mug, and I could ride till I'm snug in a jar. A slice of onion in a row, one, draw one. Wait away the percolator. I love coffee, I love tea, I love the Java Java, and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boy. Boston bean. Soybean. I sit on little green bean. Cabbage and green. You know that I've no green. Battle. Oh, let's see, this is cheery, cheery bean. Talk it, boy. I love Java, sweet and wild. cap, cap. Who slipped me a slug from that wonderful mug? And I'll cut a rug that slug in a jug. Drop your nickel in my pot, Joe. Taking it slow. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, coffee and tea. I love the Java Java and he loves me. I will the coffee and tea and the Java and me. Yeah. A cup, a cup, a cup, a cup. Boy. Bravissimi, perché è difficile adattare un pezzo di Manhattan Transfer. Tanti di Manhattan Transfer sono meno numerosi di voi e quindi è già una cosa già difficile per se stessa, perché tanti solisti in questo momento, tre solisti, due maschietti e una femminuccia. È difficile proporre un tre solisti un pezzo che i Manhattan Transfer sono solo quattro. È quello. Com'è la costruzione, l'idea di riproporre un pezzo di Manhattan Transfer fatto da voi che siete in nove? Diciamo che già il brano un po' è diviso con queste voci, poi si cerca di andare a prendere la parte che più è adatta alle varie persone. E chi lo schema, come viene fatto? Ecco, stasera, cioè, parliamo, facciamo un esempio, avete deciso di fare questo pezzo di Manhattan Transfer, come vi dividete i compiti? La costruzione del pezzo vero e proprio, questo è interessante perché i nostri ascoltatori devono sapere che non è semplice e facile, è molto faticoso, assolutamente faticoso riprovare fino a che le cose vengono fatte secondo una certa maniera. Allora, praticamente succede così: si propone il pezzo e poi nei vari punti di intervento io propongo anche uno dei ragazzi che faccia la parte da solista. Poi è chiaro che se loro dicono guarda che qua non me la sento, è troppo alta, è troppo bassa, non è nella mia tessitura, si possa scegliere assieme chi prende quel posto là e sostituisce. Quindi la quadratura del cerchio ci deve essere sempre, praticamente, alla fine del pezzo. Sì, sì. E l'importanza del tuo basso, della tua chitarra, l'importanza della tastiera, che stimoli dà la musica per praticamente quadrare il cerchio? Beh, e come diceva prima Agostino, in questi pezzi qua, che sono un po' misto, no? Sono tanto vocali, sì. e sono contaminati anche dalla parte musicale, degli strumenti, è necessaria per avere questo tipo di sonorità, che è diversa da quella che giustamente lui faceva notare dei per esempio dei Neri per Caso oppure dei Take Six. Sì, d'accordo, ma i Neri sono solo vocali. Sono solo vocali, esatto. E quello è importante. E quindi qui si dosa un po' loro, un po' noi. È più difficile allora usare anche la musica secondo te, visto che sei te uno dei propulsori, visto il basso è il solito strumento che dà là a tante cose. No, per me è anche più carino nell'insieme, perché noi ci siamo sempre messi nelle condizioni di chi ascolta. Potrebbe essere pesante sentire solo voci. Ecco, sempre. Hai detto una cosa giusta, potrebbe essere pesante sentire solo voci. E anche, secondo me, anche per loro, cioè, è impegnativo, e poi ci vogliono anche una vocalità abbastanza estrema e con i muscoli. Quindi insomma, la musica, no? Aiuta praticamente. Sì, aiuta assolutamente. Sì. Anche perché ci aiuta in un senso, e ci dà anche la possibilità di far fare a loro delle cose che magari in alcuni arrangiamenti originali vengono fatti dai fiati piuttosto che dagli archi, quindi loro diventano un po' più poliedrici, nel certo, senso che capito. E coprono delle parti che tiriamo fuori prima del brano e praticamente le fanno loro, anche simulando con la voce, simulano la tromba, cioè abbiamo, lui è un batterista che suona la chitarra, un chitarrista che suona la batteria, però anche lui è... Facciamo una simulazione, visto che ci sei, dai. Marco. Vai Marco. Una piccola Vai simulazione Marco. Di tromba, dai. Il nostro basso, la tromba, basso tromba. La preferite. Ma andiamo con sax? Sì, un sax, dai, con sax. Cosa semplice, sì, una cosa molto semplice, per far capire a chi ascolta com'è il discorso. Ha Bravissimo, lo so che nella scaletta non c'era, ma noi qui la scaletta non la rispettiamo mai, quindi dovete stare attenti, non la rispettiamo mai assolutamente. Fantastico, fantastico. Passare anche eventualmente una tromba. Vai, vai, vai, visto che sei con sordina. Bravo, bravo, complimenti, bravo. In tante interviste questa è la prima che facciamo con questi strumenti vocali. Sì, è la prima volta in assoluto. È la prima volta in assoluto. Quali nevi per caso? Qui abbiamo gli Enjoy stasera. Marco Ruffato, il nostro basso. Il nostro basso. Allora io devo salutare delle persone che vi stanno ascoltando, vi salutano, Marta e Serena, penso lo conoscete bene, si chiama Valerio Pizzato. Ciao Valerio. Ciao, ciao Valerio. E non so se vi conosco. Esatto, credo che conosca anche Rossana, se non sbaglio. Sì, ciao Valerio. Ecco, e poi ci sottolineano il fatto che voi tutti dovete salutare una vostra fans che si chiama Laura Saccarelli. Laura, ciao. Ciao Laura. Ciao Laura. Ciao, ciao Laura. Cos'è, una che vi segue sempre? Sì, sì, sì, siamo molte amiche e appunto lei è sempre presente ai concerti, sì, miei in particolare, ma poi col tempo si è affezionata agli Enjoy e quindi ci segue con molta domani attenzione. Magari verrà anche a Verona. Domani in realtà spero di sì, ma io non ci sono a Verona purtroppo. Ah, ecco, quindi... Va bene, quindi abbiamo salutato anche Laura, magari se gli volete dedicare una canzone, magari la prossima lo fate tranquillamente. Io vi ricordo che questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante, con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con questi amici che si chiamano Enjoy, questi vocal ensemble che ci stanno deliziando con le loro voci, sono veramente straordinari. Peccato non avere le telecamere, dicevo, le webcam per farveli vedere, perché ovviamente mentre cantano non è che sono seduti tranquillamente lì no, devono muoversi continuamente, fanno movimenti con le mani, insomma è bellissimo vederli oltre che sentirli. Siamo ingombranti. Quindi immagino sul palco, insomma, come siete voi, siete, come dire, animali da palcoscenico. Beh, per chi è curioso comunque, per chi fosse curioso di vedere come siamo sul palco, ne approfitto per il momento promozionale. Il 22, esatto, il 22 dicembre saremo al Teatro Ariston. Sanremo era un po' troppo distante per tutti, quindi abbiamo optato per quello di Bolzano Vicentino. Ah, sempre Ariston comunque. Sempre Ariston comunque, insomma, voglio dire, se qualcuno volesse anche portarci dei fiori noi non ci offenderemmo. Mm-hmm. Il repertorio sarà prettamente appunto gospel e natalizio, proprio per l'occasione certo. dello scambio di auguri. Ma da queste parti è Padova, non fate niente, non venite a suonare. Noi dove ci chiamano andiamo volentierissimo. Non avete, già che ci siamo, parliamo dei prossimi concerti. Avete questo domani sera, poi dicevi... Allora, il 14 dicembre con Benedetta al Teatro Filarmonico di Verona, il 22 dicembre invece solamente la formazione Enjoy, quindi un concerto totalmente nostro, appunto gospel e natalizio, il 23 dicembre sempre con Benedetta. Replichiamo a Kaonorai, alla chiesa, giusto, alla chiesa di Kaonorai, sempre Enjoy, concerto natale e gospel. Quindi adesso è il vostro momento dal punto è di il vista. Momento, sì, sì. Cioè tutti vogliono il gospel, Natale. Cosa ci fate ascoltare adesso, già che siete caldi? Un brano dal musical Rent, si chiama. Ecco, parlavamo di gospel. E noi ci spostiamo, ma perché ci piace saltare tra i vari repertori. Seasons of Love. Blu Radio Veneto. A year in the life. How about love? La scelta di un musical non famosissimo come Rent, come mai questa scelta particolare? Dimmi, chi ha voluto cercare di praticamente coinvolgere un matrimonio? Ecco, c'è un motivo allora, c'è un motivo. No, in verità no, è perché abbiamo avuto modo di vedere il musical dal vivo ancora anni fa. Milano, e la versione quindi in italiano, certo. In verità. E poi così ci siamo appassionati comunque delle musiche di questo musical, siamo andati ad ascoltare la versione originale americana, in inglese, sì. Che oltretutto è stata anche fatta da Stevie Wonder, sì. E infatti per radio si è sentita per un periodo fatta da Stevie Wonder, e quindi comunque è un brano, anche se semplice per certi versi, ha una coralità secondo me molto accattivante. Certo, è la coralità che io ho notato adesso, infatti. È decisamente accattivante, cioè proprio un'unione totale stavolta. Esatto, abbiamo noi, io e Agostino, che al di là del vetro, abbiamo avuto questa sensazione di un'unione totale tra le voci, un interscambio perfetto tra gli alti e i bassi, chiaramente. Sì, infatti ci sono magari certi pezzi dove si mette in evidenza la bellezza della coralità, nel senso dell'insieme delle voci, non ci sono delle armonizzazioni stratosferiche, ed è bello, si può trovare sicuramente molto interessante anche queste cose. Poi ci sono magari brani tipo quelli dei Texas, torniamo sempre su loro, che hanno delle armonizzazioni. Nel vostro DNA i Texas, citate spesso e volentieri. Beh, diciamo che sono una specie di titolo. Sono un obiettivo, in una certa maniera. Sì, esatto. Beh, oddio, sono uno degli obiettivi, perché comunque ci sono anche altri gruppi, come adesso l'ultimo che abbiamo ascoltato, anche New York Voices, al Geox, che sono stratosferici, che prendono un po' dai Manhattan Transfer, ecco, come genere. Quindi comunque ma possiamo dire che i Manhattan Transfer, al di là di Texas, abbiano sdoganato il genere vocale nell'ambito non soltanto mondiale, praticamente. Beh, certo, sicuramente. Sì, sì, che sono riusciti forse a coinvolgere anche forse un pubblico un po' più pop, quello è importante, hanno sdoganato il discorso, rendendolo appetibile per tutti, anche chi non è proprio convinto, non è più seguace, se si può dire questo termine, vicino alla musica di un certo genere. In questa quindi Manhattan Transfer sono stata una garanzia totale, chiaramente. Anche perché hanno toccato un po' tanti generi. Sì, insomma, non soltanto quello. Hanno fatto un po' di tutto. Comunque Season of Love aveva anche delle belle luci nella coreografia, sì, quindi abbiamo scelto anche per quello. Mi è piaciuta. Perché poi siamo... Dobbiamo metterla in scena sul palco, quindi cerchiamo di seguire anche... Ma avete alzato le mani adesso, io ho visto che avete alzato le mani, vi siete mossi in questa... Sì, probabilmente è residuo di una coreografia che abbiamo... Io ho notato questo. Andiamo in automatico. Ho notato questo. Chi è che cura le coreografie a proposito? po' tutte. A caso. No, vedo che siete molto, molto sincronizzati nei vostri movimenti, quindi insomma credo che qualcuno ci sia. Che... Uno prende la, l'iniziativa, il brano è suo, copiano. Responsabilità e anche il mentale. Tipo su e salutare. Sì, cerchiamo di dividerci magari anche i pezzi in questo senso, nel senso uno piuttosto che un altro cura la coreografia, arriva lì con dei passi più o meno semplici e noi seguiamo. Però la volta dopo magari se fate lo stesso pezzo magari cambiate coreografia. No, si dimenticano tutto. Ci dimentichiamo ovviamente. Non resta più niente. Ragazzi, dite la verità, sono io che faccio le coreografie. Betty. Ogni tanto la Betty risorge. Ma la Betty è quella che arriva più o meno due prove prima del concerto e comincia: ho un'idea! E comincia a far passi dappertutto. E tu dici: Betty, abbiamo due prove, non ce la faremo mai. Come però... sempre, bocciata. Però la Betty sta soffrendo da matti, sì, ve lo posso garantire, perché mi sta scrivendo qui, la sento la sua nostalgia, la sua... Ci manchi, Betty. Vai, Betty. Vabbè, dai. Io volevo chiedervi, ma non vi è mai venuta voglia, forse meglio parlare con te, Gianpaolo, di fare un disco proprio tutto vostro, solo vostro? Ah, sì. Gianpaolo, ho scritto le parti, se vuoi. Ah, ecco. Bene. Sì, solo che non è facile. Poi noi abbiamo sempre privilegiato la parte live del nostro progetto. È anche vero che quando ci eravamo molto vicini sono successi degli imprevisti in mezzo per cui non siamo riusciti. Quindi ci siamo trovati un po'... Cioè, la cosa bella sarebbe fare dei pezzi inediti. Sì, sì, in quel senso là, dicevo. In questo senso, più che riproporre delle cover anche... Cioè, anche perché visto le potenzialità vocali che avete, insomma, non da poco, io conosco solo le femminucce a parte Giulia, che, insomma, che è la prima volta che la vedo, ma insomma ci sono delle cantanti che sono veramente bravissime all'interno di questo gruppo, quindi i maschietti li abbiamo sentiti, c'è la tromba, c'è il sax, hai di tutto e di più, quindi credo... solo un po' di buona volontà, penso. Obiettivo, sì, dai. Non è una critica la mia, no, credo, però insomma, io dico perché siete veramente bravi, meriterete di avere qualcosa in quel fisicamente, insomma, da sentire, da anche proporre. Anche perché se dopo lo facciamo, ritorniamo qui. Vedi. Ma l'hai detto tu stavolta, di solito sono io che lo chiedo, Maurizio, insomma, stavolta l'hai detto tu, insomma. No, in un'intervista hai parlato, Gianpaolo, che c'è un DNA vi lega tutti quanti, il feeling. Il feeling vi leva tutti quanti in qualsiasi momento, il trasporto, cioè un'unione totale attraverso il feeling, il patto, il dare musicalmente, vocalmente le cose. A volte succede che anche in palco hai la percezione che tutti siano sulla stessa linea d'onda. Sì. E questo vuol dire bello, che, è bello. Sì, vuol dire che avete raggiunto l'obiettivo, secondo me. Sì, è un po' come, non so, capirsi al volo, no? Quando succede, penso che tutti possono dire di andare a casa soddisfatti, carichi, ti resta per un po' di tempo, dopo non succede sempre, però quando succede... Tu hai detto capirsi al volo, com'è il capirsi al volo sul palcoscenico? I meccanismi che scattano immediatamente, in quel momento. voglio vedere l'atteggiamento. In cui è successo. Dimmi, scusami. No, direi che radici l'ultimo concerto che abbiamo fatto, ci siamo capiti al volo tutti quanti, nonostante non ci guardassimo. Esatto. Può capitare, partiti sbagliati con il tempo, la parte ritmica, la parte strumentale. Dovevamo partire noi come coro, non sapevamo dove partire. E nel momento in cui siamo partiti, gli strumenti sono fermati, hanno lasciato nello spazio. Anche là è stato recuperato. Recupero, sembrava addirittura fatto apposta, voluto. Gente che ci aveva sentito in altre occasioni ha detto: non era male questa versione del brano, dovete un po' perfezionarlo. Ma perché un'altra cosa che hanno detto a proposito di vostri concerti: cambiate spesso e volentieri, cioè la gente che viene una volta, quando verrà un'altra volta il repertorio sarà cambiato. Abbiamo talmente tanti brani in repertorio, ma è positivo questo, certo, come Bob Dylan che cambia sempre la scaletta quando fa i concerti, la stessa cosa. Il paragone magari paragone, però Bob Dylan è un personaggio che i musicisti che seguono Bob Dylan non sanno mai che cosa lui vuole suonare, non lo sanno mai. È la stessa cosa, non penso che Gianpaolo non vi dica facciamo questo, però un po' di suspense ci potrà essere. Sì. L'effetto sorpresa. L'effetto sorpresa. Sorpresa c'è. Come... Viene sulle spine, ma quello per è bello, viva è, l'attenzione. Ed è bello che sia così, secondo me. C'è tensione, ma è tensione in senso positivo del termine. Per quello io la penso così. Non so se sei d'accordo, se siete d'accordo. Certo, assolutamente. Certo, è talmente un effetto sorpresa che addirittura, nonostante la scaletta davanti, c'è chi parte con un brano diverso da quello che perfetto. Rimaniamo sorpresi anche noi a volte. Adesso non svegliamo tutto, manteniamo una certa rispettabilità. Dai, e non poi svegliamo proprio. Non laviamo i panni. E quello è il panico, non è il vibrare esatto. Assieme. Quello è il panico. E poi come vi mettete in carreggiata? Ci sono del feeling che si trasformi in occhiate praticamente. Fulmine. Più o meno minacciose. Esatto. Certo. Sì, diciamo che ci sono situazioni che se fossero capitate qualche anno fa probabilmente ci avrebbero messo in avremmo crisi. Chiuso il sipario. Sì, essere un gruppo è un po' un lavoro di squadra. È come essere una squadra. Anche parla vicino al microfono. È dover... remare su una canoa tutti insieme, andare su una canoa da soli è semplicissimo, quando si è in due o in più diventa molto più complesso. Uno può essere fortissimo, certo. Avere delle braccia potentissime, però la barca non va nella direzione in cui deve andare, per cui si deve remare ma vedere come remano gli altri, si deve cantare ma sentire come ascoltare come cantano gli altri, come suonano gli strumenti, l'intesa. Sì, l'intesa si raggiunge No, quella... con il tempo, perché certo. No, lui facendo... citava Rita Berti, provando sistematicamente una volta a settimana da tanti anni si raggiunge una volta alla settimana provate sì. Se non sono ammalati sì. Va bene, a parte è provando sistematicamente sistematicamente provando in continuazione, ritrovandosi sempre, è un bello sforzo anche dal punto di vista di tempo, trovare sempre lo spazio giusto per suonare, per cantare, sì, per mettersi a sedere. Vale la pena. È bellissimo, secondo me, la passione è più forte di tutto. Quello che si acquisisce provando insieme, comunque anche trovandosi anche con quello che si crea a livello umano, perché bene o male, cioè certo. Ci si conosce, si diventa amici, è chiaro che non si è più un gruppo di estranei, si è un gruppo di persone che condivide e porta avanti la stessa passione, scegliendo insieme il repertorio, studiando insieme, magari soffermandosi una sera solamente su delle particolarità riguardanti la pronuncia di un brano piuttosto che alcune dinamiche da ottenere insieme. E poi tutto questo ripaga tantissimo sul palco, perché il lavoro diventa veramente un piacere, diventa facile, diventa divertimento, e quindi appunto vale la pena, diciamo. Sì, l'applauso del pubblico che ripaga tutto immediatamente. L'applauso del pubblico, ma anche proprio il sentirci uniti, certo, come se avessimo uno stesso cuore che batte insieme. No, perfettamente. È proprio la sintonia, l'armonia che si crea appunto grazie a tutto il lavoro che viene fatto prima. Io devo fare un annuncio, c'è un componente dei Bards che vi sta ascoltando, fa tutt'altro genere di musica, quindi fa comunque musica rock anni 60-70, e vi fa i complimenti innanzitutto e vi dice grazie. Se avete voglia di passare domani sera al Terminal qui a Padova, ci sarà il loro concerto, questa band che fa dai Procolarum ai Beatles, ai Creedence, insomma c'è un purpurì di vecchie canzoni che fanno sempre piacere, quindi l'appuntamento è per domani sera al Terminal qui a Padova con i Bards. Impegni e mi riservo un posto. E quindi vi aspetta, insomma. Li facciamo suonare? Certo che sì. Io posso fare una richiesta? Prego. Io so che voi avete nel vostro repertorio una band che io amo alla follia, nel senso che ho vissuto quegli anni 70-80 in prima persona, perché le proponevo spessissimo nelle nostre dirette radiofoniche, sono gli Earth, Wind and Fire. Ce l'avete per caso pronta questa sera o no? Gianpaolo, mi affido a te. Ma è la band che abbiamo cancellato? Non li facciamo più. No. Ah, non li fate più? No, li facciamo. Però non possiamo farli perché manca la Betty. Manca la Betty, che è colpa sua. Bello, è colpa sua. Come non detto? Non ti ho detto di no io. Vabbè. La colpa è sua. La prossima volta con la Betty. Ecco, vabbè. Betty, ti aspetto. D'accordo. Agostino ha citato Earth, Wind and Fire, gruppo che adesso è un po' perso chiaramente, sono Morris molti White anni, è stato in però era molto importante all'epoca. Come mai avete scelto Earth, Wind and Fire? Un pezzo famosissimo quello che avete scelto. Perché c'è la Betty. Oltre perché c'è la Betty, che è un ritornello accattivante che entra immediatamente. Sì, perché a me piacciono tantissimo. Quindi hai deciso sufficiente per farli. No, vabbè, che hanno sposato il pop con me la metto su. Ecco, esatto, bravo. Hanno sposato il pop e il soul, anche sì, un tantino di rock. Poi sono belli, brani molto belli, sono arrangiati, hanno le voci, hanno i fiati. Certo. Ecco, il problema, hanno soprattutto i fiati. Il problema è quello di proporle. Cioè, proporre dei pezzi così senza i fiati è un po' difficile. È impossibile. E noi ci siamo resi conto che sono necessari. Ma avete un sax però voi in formazione? Sì, ma là ci vuole una sezione. Mm. Ci vuole una sezione perché sennò hai tutto, casca tutto. Lo so. È la base di tutto, diventa quello che bisogna fare. Però fantasy, il classico che avete proposto. Magari non sono così, anche After Love Is Gone. Però se fai Got to Get Into My Life, per esempio, pezzo dei... Sì, che non è loro, però l'hanno rifatto. Sì, l'hanno ripreso. Ma là ci vuole la... Ci vogliono i fiati. Io ti dico una cosa. Il connubio è fiati e voci. Certo. Io ti dico una cosa. L'altro giorno, quando Agostino ha sentito il pezzo, si è alzato subito dalla sedia, perché quante volte l'hai messo su Fantasy? Beh, non solo quello, c'era Boogie Wonderland. Sono d'accordo, ma Fantasy è un pezzo famosissimo. A me piace comunque, la canzone che mi piace più in assoluto degli Earth, Wind and Fire è I'll Write a Song for You. È bellissima. Sono d'accordo. Quella che piace a me. E là non servirebbero neanche i fiati, Agostino. Vedi. La volta prossima la prepariamo. Farla. Se me la fate, mi fate veramente un grande regalo. Okay, ve lo dico con il cuore, perché io amo molto quella canzone. No, è molto bella. Quando facevo i notturni mi ricordo che la mettevo quasi sempre, anche perché era molto richiesta in quegli anni. Poi c'era Boogie Wonderland, c'era... Vabbè. Una volta si ballavano i lenti, adesso... Tanti amano After the Love Is Gone, invece io ho sempre preferito quella. Beh, un pezzo, anche quello è un pezzo. Da Mattolella proprio, Vabbè, poi vengo a prendermi una ragazza, mi faccio un ballo, me la metto su qui, vabbè. Va bene, cosa ci fate ascoltare? Allora, visto che la mia richiesta non può essere esaudita, colpa della telefonica. E adesso facciamo un brano che originariamente è stato scritto e cantato da Mark Cohen, che è Walking in Memphis. Chi è che è questo che non conosco? Walking in Memphis di Mark Cohen. Ah. Noi facciamo la versione gospel, sempre gospel, rivisitato in chiave nostra, un brano che è stato portato a successo anche in tempi non sospetti da Cher, in una versione disco pop da Bruce Springsteen. Adesso l'ascoltate nella versione degli Enjoy Vocal Ensemble. Che presentazione. Studiate, oh. Ragazzi. Ok. Radio Veneto. when you haven't got a prayer. Now you got a prayer in Memphis. Dire due cose adesso, l'ha fatto il boss, quindi mi devo alzare in piedi, quindi non l'ha fatto il boss. È una cosa che ho tutto, bisogna notare, Serena ha una voce molto nera, potresti assolutamente cantare i pezzi di Janis Joplin. Sono d'accordo, assolutamente nera, mi trovi d'accordo, assolutamente nera, potente nera, assolutamente nera. Complimenti, hai fatto una bellissima interpretazione, anche grazie a loro, chiaramente. Certamente il boss sarà assolutamente contento se l'avrà sentito. Grazie. Non si sa mai nella vita, possa sentire la vostra versione. Grazie. Allora, io vi porto ancora dei saluti dalla zona di Mantova. Miria vi sta ascoltando, è arrivata adesso, si scusa del ritardo, ma comunque vi sta ascoltando. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. E poi penso che a Marta e a Serena faccia piacere sapere che c'è una ballerina. Erika? No. No. Oriada. Bravissimi. Oriada. Ciao Oriada. Ciao Oriada. Vi sta ascoltando e dice che siete bravissime, insomma, e siccome grazie. È una cara persona Oriada, io la saluto veramente con un affetto. La salutiamo anche noi. L'ho vista poco qualche giorno fa, insomma, quindi fa sempre piacere rivederla. Poi l'aspettiamo, ci sarà in gennaio al concerto vostro, Marta? Penso di sì, proprio di sì. Quindi per con i Wit Matrix che sto parlando, insomma. Ciao Riada, ben sintonizzata sulle frequenze di Blu Radio Veneto con Agostino e con Maurizio. Sì, una cosa, sono bravi perché anche qui c'è uno spazio ridotto e questa musica dà movimento, hanno cercato di muoversi, ma più di tanto, questo è lo spazio, ma quello è indice, secondo me, il movimento è fondamentale per cantare, perché bisogna cantare, muoversi. I neri ci hanno sempre insegnato, movimento vuol dire anche cantare, la stessa cosa. È un modo per dare il tempo anche è un modo per dare un tempo, sì, esattamente. Trovare la sintonia. Esattamente. Sì. E quindi lei ha una voce da Janis Joplin, quindi io l'ho targata così, quindi qualche pezzo di Janis Joplin metteremo anche in repertorio. Secondo me un pezzo di Janis Joplin ci sta bene, perché il soul e il blues tu hai una voce molto blues, secondo me. E mi piace anche molto il blues. C'è anche la stazza da... quello non l'ho detto, ma la stazza serve, la stazza. Il fisico. Si chiama cassa armonica. È la cassa armonica, bravo, hai detto la cosa giusta. Beh, insomma, quando lei canta The Great Gigs in the Sky assieme a Marta e Antonia, sono ecco, veramente... la canta in blues, però, anche quella, secondo me. Dai, una cosa... che c'è qualcosa. C'è sempre, il blues entra sempre, a mio parere, io t'ho sentito così stasera, in questo momento. E c'è la colorazione blues, e ritornando al discorso alla Janis Joplin, è questa la chiave di volta. Chiaramente questo è un pezzo che ha fatto il boss. Il boss non è blues, però... Ok? Però ci sta, esattamente. Ci sta l'anima. È il padre e la madre di tutte le musiche, secondo me. Ecco. Qualcuno dice il jazz, ma non è proprio così. Secondo me c'è il blues prima del jazz, a mio parere, chiaramente. Nel campo un po' specifico. Sistemi. Ma è bello ragionare anche su questo. Siamo tutto, assolutamente tutto dal vivo, 22 e 12. Sì, io ve lo stavo per dire, mi dispiace dirvelo perché è già passata un'ora e un quarto, quindi abbiamo ancora circa una ventina di minuti scarsi alla fine. Quante canzoni avete ancora in mente di regalarci questa sera? Lo so che ne avete 25, 26. Sì, noi ne abbiamo tanti. Non so. Due. Più di due, abbiamo ancora un quarto d'ora. Allora, se tagliamo le parole, ci ascoltiamo subito una canzone. Okay. Cosa ci fate? Allora, adesso è un brano che è stato portato al successo dai Manhattan Transfer. E si intitola Operator. E in questo brano, ipoteticamente, si cerca di entrare in contatto telefonicamente con il Signore. Quindi, un brano gospel. Blue Time, Blue Time. Agostino, gospel ha un certo fascino per te, anche per me in questa sera. Ho cambiato idea su certe cose. Sono un po' distante. Vieni più o meno, vieni da me. Lo so, sì, sai. Bisogna avere pazienza. Capisci vabbè. Perché queste canzoni ti provocano brividi. Gliel'ho scritto. Dimmi, una cosa, certamente. Vai, andiamo un po' fuori dal seminato. Vai. Canzone, però. Siccome abbiamo tra di noi una grande professionista, una persona che vive di musica, sapendo quanto difficile sia. E la voce solista di questa canzone è Rossana Carraro. Certo. Dobbiamo dirle ste robe. Però lei ha fatto una prova incredibile proprio. Ti sei scatenata. E non si può stare fermi cantando queste cose. Pare un pezzo simile, non si può stare fermi, chiaramente. Grande Rossana. Grazie. Brividi ho scritto io e lei è vero che l'hai scritto anche tu, Betty? Sonno. Dacci un segnale di vita, Betty. Sei a letto? Pronto? Niente. È andato a letto. Mi senti, Betty? Allora, staccato. Forse si è allontanato. Agostina ha caduto la linea. Ecco. C'ha il telefono scarico, diceva. Vabbè. Allora la salutiamo. Ciao Betty. Buonanotte. Riprenditi, che ci manchi. Ti aspettiamo per altre puntate. Va bene, ciao. Tu hai detto che facciamo un pezzo di Manhattan Transfer con una colorazione gospel. Non era propriamente così nella versione di Manhattan Transfer. Il discorso della colorazione gospel, chi ha avuto l'idea? Sempre te, Gianpaolo. No, non c'era la tromba. Non c'era la tromba, per quello. Parliamo del nostro solista, dai. Dai, come sei riuscito ad immedesimarti nel discorso con la tromba? Siamo stato molto democratico, Gianpaolo. T'ha scelto. Mancava la tromba. T'ha scelto. Stasera. Voi non avete potuto vedere, ma c'era il dito che indicava a chi toccava fare la parte solista. No, diciamo che così giocando magari uno fa dei suoni. Altri li sentono e dicono, ma perché non mettiamo un tocco di... E che difficoltà hai avuto nell'interpretare questo pezzo con la tromba? Beh, la difficoltà al di là della respirazione di col suono della tromba di cantarlo è proprio il fatto di creare un assolo che abbia un senso con il brano, di trovare le note giuste. A volte si rischia anche di stonare. Stasera non è capitato, ho avuto fortuna e comunque sì, insomma, anche a livello di respirazione non richiede grossissima. No, pensavo che ci fosse una tecnica per ma è un suonare gioco, così. Alla fine è nato per gioco e vedo che questa funziona. Tra l'altro non ho studiato musica, eccetera, quindi... Però eri assolutamente intonato. Gianpaolo non ha detto niente, quindi... Lui si sminuisce sempre, ma in realtà Marco ha una grandissima vocalità e difatti, cioè, non riesce a tutti nemmeno fare così gli strumenti come fa lui. Solo che lui continua a dire, ma io non ho studiato, ma io... Però in realtà lui ha proprio un senso musicale che secondo me... È un dono, esatto. È un dono. Che dovete usare, chiaramente. Guarda che diventa rosso, No, non sembra molto rosso, però. La Rossana sì, però. Effettivamente. Forse perché fa troppo caldo lì dentro. Diciamo. 10 minuti, ma li spendiamo bene. Subito un'altra canzone, poi torniamo in studio e ci salutiamo finché arriva Renato, che ci farà poi tutt'altra musica, perché poi ci sarà la musica heavy metal, quindi pensate un po'. Noi invece continuiamo con il gospel, facciamo un pezzo classico del gospel che è Shackles. Un pezzo che è stato riportato alla ribalta una decina d'anni fa da un gruppo pop che si chiamava Mary Mary, se non sbaglio, giusto? Sì. Noi prendiamo un po' di qua, un po' di là, facciamo sempre la nostra versione con Shackles, sempre gli Enjoy Vocal Ensemble. Prego. Break free, 'cause you see, I have been down so long. lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. Oh, take the shackles. I just wanna praise you. Off my feet. I just wanna praise you. Off my feet. You brought the chains so I can you raise my hands. Now I'm and I'm free. Gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Everything that could go wrong all went wrong at one time. So much pressure fell on me that I was gonna lose my mind. But I know you wanna see if I can hold on through this trial. But I need you to lift this load, cause I can't take this no more. Take the shackles off my feet so I can dance. Oh, I can dance. I'm just gonna praise you. I'm just gonna praise you. Gonna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. I can lift my hands. And I'm gonna praise you. Oh, I'm gonna praise you. Through the fire and the rain, found in every kind of way, but God has taken every chain. So let me go right now. Take the shackles off my feet so I can dance. Take the shackles. I just wanna praise you. Off my feet. I just wanna praise you. Off my feet. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Shackles off my feet so I can dance. Oh, I can dance. I'm just gonna praise you. Oh, I just wanna praise I'm you. I'm gonna you broke the chain so I can oh, lift my hands. I can lift my hands. And I'm gonna praise you. Ooh, oh, I'm gonna praise I'm you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Shackles off my feet so I can dance. So I can dance. I just wanna praise you. I'm just gonna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Fantastica, diceva la tromba Chiara. È un messaggio che è arrivato prima. Grazie. Allora, grande grazie. Pezzo questo. È di parte, forse. Cosa è di parte? Non so, e poi una cosa che ho notato, finalmente ho visto la spazzola, puoi rifare la spazzola con la chitarra, batteria e chitarra assieme? Eccola, vedi? Senti Agostino? Sì, la sento. Perfetto. Vai Cisco. Ecco, no, diciamo vabbè. Anche chi è il nostro chitarrista, mi permetto di presentare anche Francesco Faldani che è allievo niente po' di meno che di Tommy Emmanuel, quindi ah, un Tony chitarrista Hammer, un mostro sacro. Diciamo che è stato invitato quest'estate a suonare una convention a con Nashville, lui? Giusto, con fortuna, lui, sì. Esatto. Beh, quando viene a Padova ce lo porti qui magari. E Tommy Emmanuel, sei un po' difficile però. Io ci provo. Sei un po' difficile. No, sei in macchina con me te lo porto. Ecco. Difatti hai dato un po' di colorazione country in alcuni momenti con la chitarra, sì, leggermente ho sentito, non mi sono permesso di inserirmi, però adesso che ho sentito ho continuato, potrebbe farci un assolo di chitarra, no? Sì. Quello che vuoi certo, tu certo. Bravo. Yeah. E il blues c'è sempre. Vogliamo che la parte. Il blues c'è sempre anche stavolta. E viene fuori. Cosa dici? Assolutamente. Certo, sempre. Sei contento adesso, state, Maurizio? Ci sono state due voci soliste, le due ragazze praticamente scatenate. Veramente. Hai visto, Maurizio? Sei contento che ti ha fatto sì, un pezzo? Sì, sono contento perché io sono sempre contento. Perché, innanzitutto, sono nella fossa di lei. Sì. Perché tu hai la fortuna di essere. Hai la fortuna di essere sempre a contatto con gli artisti. Certamente, tu sei al di là del vetro, le sensazioni che hai. Sono sempre belle, però certo. Le mie sono più forti. Io posso fare come potessi suonare anch'io. Sono dentro assieme a voi. La stessa cosa, secondo me, è una cosa molto importante, positivissima. Beh, dà una sensazione forte. Il fatto di essere così tante volte in radio per fare questi live ci porta veramente a vivere delle emozioni intense, fortissime. Diventiamo musicisti noi stessi, anche se io non so suonare assolutamente nulla. Però non vuol dire niente, è il feeling, il trasporto. Allora, sono le 22:27, Renato non è ancora arrivato, io direi di continuare andiamo a avanti, fare due avanti. Parole, o voi volete suonare ancora? Suoniamo un altro pezzo, dai ragazzi. Poi torniamo in studio e ci salutiamo. se siete già pronti, pronti, pronti. Adesso Giampaolo. Ah, c'era la Betty che mi diceva, ma è la sorpresa che dovevano farmi? Quale sorpresa? Non so, ha scritto così. No, il brano a sorpresa era la sì, il Little Prayer. Sì, la Little Prayer. È andata a mettere la preghiera affinché lei guarisca in presto. Ah, ecco. Sì. Hai capito, Betty? Non so se mi sta ascoltando ancora, comunque mi ha scritto in Facebook. Allora, cosa ci fate ascoltare adesso? Tutto in velocità questa sera. Un gospel, per farli sentire. L'ultimo gospel, esatto, questo potrete sentirlo appunto il 22 dicembre al Teatro Ariston di Bolzano Vicentino, ore 21, vi aspettiamo, It's Me, Oh Lord. Prego. Sentito Maurizio? Sì, ho sentito, ho visto anche il gesto di per Rossana. Unire tutti quanti alla spinta, tu hai dato l'input, 1, 2, 3 e via, alla fine del finale. Allora, abbiamo recuperato velocemente anche Betty che vi vuole salutare. Betty, ci sei? Sì, ci sono adesso. No, ragazzi, siete fantastici, veramente, è stato un gusto sentirvi la radio stasera, proprio un gusto, mancavi da spettatrice per la prima nostri. Volta. Bravi, complimenti. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie di aver aderito nonostante il tuo malessere, Betty, di farci compagnia. È stato un piacere e ringrazio anche voi, insomma, di avermi contattato per rendermi partecipe a questa bellissima serata, insomma. Quindi grazie anche a Blu Radio Veneto, grazie mille. Ci aspettiamo qui prossimamente, ovviamente. Non speriamo, bene, incrociamo. Giampaolo ce l'ha promesso, quindi ci porterà questa tribù di cantanti a trovarci un'altra volta qui in studio, va bene? Certo, grazie a tutti, buona serata ciao, a tutti. Ciao, ciao Betty, ciao Betty, ciao. Allora, ragazzi, abbiamo finito, è arrivato Renato che adesso ci allieterà con la sua musica heavy metal rock. Ci salutiamo con l'ultima canzone. Che cosa? Whatever you want. Grazie intanto, grazie Agostino adesso, per averci invitati. Adesso salutiamo tutti. È stata una bellissima occasione. Io ne approfitto già finché tu ti prepari grazie. Con le canzoni di salutare le persone che erano presenti questa sera, cioè comincio dal basso adesso. Marco Ruffato, dal basso nel senso che nella lista è. Allora, Marco Ruffato, grazie di essere qui questa sera. Grazie a voi per l'ospitalità. Francesco Faldani. Grazie. Massimo Di Giulio. Marco Bozzolan. Grazie mille, ciao. Giulia Toniolo. Ciao a tutti, grazie. Rossana Carraro. Grazie a tutti, buonanotte. Marta Melchiori. Ciao a tutti. Marco Zonta. Grazie Agostino, grazie Maurizio, grazie a tutti. Grazie Serena a Pasinato. Grazie a tutti, grazie. E il coordinatore, il direttore, insomma il boss, Giampaolo Carraro. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti voi di aver aderito al nostro invito di essere qui questa sera. Ci avete regalato una serata in simpatia, in allegria, ma soprattutto con la vostra bella musica. Ovvio che vi confermo, insomma, vi rinnoviamo l'invito prossimamente, insomma, ci metteremo d'accordo con Giampaolo, mi sentirò, per avervi qui un'altra sera, magari con batteria, altre. Con la batteria. Con la batteria, con la batteria. quella ufficiale. E con la Betty. E con la Betty. Allora, ci salutiamo con l'ultima canzone. Io vi do l'appuntamento, settimana prossima, solo giovedì. Sì, solo giovedì, lavori solo giovedì, però un giovedì specialissimo. Sì, specialissimo, dovevano esserci loro poi tra l'altro. E giovedì prossimo sarà la serata canonica, natalizia. Che mai abbiamo con io. La solita caratteristica nostra, le cover, le carole natalizie anglosassoni, molto interessanti secondo me. Quella è la trasmissione che abbiamo ideato io e Maurizio, proprio per regalarvi queste tre ore di assoluta diretta con un'altra band, un altro gruppo che verrà a trovarci qui. Poi quella trasmissione, vi ricordo, andrà in replica il giorno di Natale, dalle 18 alle 21 credo. Maurizio, buonanotte, buon proseguimento all'ascolto dei programmi anche per te, e così pure agli ascoltatori che continuano con Renato. Certo, Renato. Con la sua musica live. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Prego. Rejoicing every day. It's gonna be a happy day. It's gonna be a happy day. It's gonna be a happy day. It's gonna be a happy day. When I see Jesus. It's gonna be a happy day. I'm gonna put my troubles away. It's gonna be a happy day.